Sì. Mi preoccupo. No, è un quadro molto coerente che però fa abbastanza tabula rasa, nel senso che detto ciò. Tenete presente che per aprire un'interlocuzione occorre andare alla radice del problema. È ovvio che io mi rendo conto, io ho fatto una relazione estremamente schematica, arrivando al punto, però... Detto ciò, io pensavo a una persona che ho visto oggi al lavoro, facevo una valutazione delle capacità lavorative residue per la legge 68, quindi vedevo una persona invalida per stilare una relazione su quello che poteva fare e quello che non poteva fare. Questa donna è un quadro, lavora per un'azienda farmaceutica, fa la rappresentante, vuol dire che ha una laurea e ha la sclerosi multipla. Ho avuto un riconoscimento di invalidità e diceva che l'azienda era stata molto gentile perché dopo aver valutato l'idea di estrometterla, il sindacato e i sindacalisti della sua azienda sono riusciti a mediare in modo che lei potesse rimanere al suo posto e in cambio però lei non aveva dovuto presentare la documentazione. Lei ha avuto il riconoscimento della legge 104 che riconosce dei diritti alla persona disabile al lavoro. Lei non aveva dovuto evitare di presentare sia il verbale di invalidità che il verbale della 104. Io le ho suggerito di andare alla Camera del Lavoro e comunque di riparlare con il delegato sindacale e con l'ufficio del personale, soprattutto di presentare invece questa documentazione, perché per l'azienda ufficialmente lei non ha nessun diritto. E questa donna è scoppiata a piangere e è rimasta lì un bel quarto d'ora a piangere. E quindi diciamo che questo è stato il primo momento da quando si è ammalata nel quale ha avuto un confronto su qualcosa che le poteva in qualche modo essere utile. A me ha molto colpito questo, perché anche questo è un livello di esclusione, quello della malattia, e qui stiamo parlando di una situazione di privilegio. È una persona che ha un buon lavoro, è una persona che ha un alto livello di istruzione, però questo evento della sua vita, questa malattia invalidante che fa paura, perché comunque una malattia che fa molta paura, l'ha isolata completamente, evidentemente, perché io non posso pensare che lei, che oltretutto ha anche una cultura scientifica, per cui si sia cioè non abbia avuto nessuno con cui parlare di questa situazione. Eppure io mi sono ritrovata davanti a una persona sola, assolutamente indifesa, esattamente come vedo altre persone al CERT, però che vengono magari da situazioni molto più critiche, no? E molto più di isolamento sociale. Quindi magari fosse soltanto un'opposizione così forte e chiara, sarebbe molto più semplice affrontarla. Ci sono poi tante situazioni molto più sfumate o molto più invisibili e che riguardano la frantumazione del tessuto sociale di cui parlava Giovanni, secondo me. Questo, diciamo così, articola però questo discorso semplicemente. Noi siamo, per chi non lo sapesse, Sensibile alle Foglie è una cooperativa di ricerca sociale. Noi pubblichiamo libri, abbiamo 150 titoli nel nostro catalogo, ma il nostro lavoro è un lavoro di ricerca. Negli ultimi anni il nostro lavoro si è centrato proprio su alcune istituzioni particolari, per esempio le istituzioni per anziani, le istituzioni post-manicomiali, perché oltre che le classiche istituzioni totali, diciamo così, carcerarie, eccetera, perché abbiamo progressivamente visto come questa desolidarizzazione, questo attacco al legame, sia un problema che piano piano colpisce fasce sociali di popolazione vastissime. Prendiamo gli anziani, no? Noi abbiamo lavorato sui due più grossi istituti per anziani che ci sono in Italia, uno a Roma che ha circa 2200 anziani, cioè diciamo una situazione, una città praticamente, a Nemi, e uno è a Bologna, una grossa istituzione, il Pio XII di Bologna. E in queste situazioni noi usiamo una metodologia narrativa, quindi facciamo raccontare alle persone le storie, il loro diciamo così, vissuti a partire da quelli che sono i problemi che loro pensano siano centrali nella loro esperienza. Ebbene, le storie che noi abbiamo raccolto e pubblicato in alcuni di questi lavori sono storie che mostrano tutte questo grande problema della frantumazione della solitudine. Dice, per questo il discorso del legame è così importante, perché attaccare il legame significa uccidere una persona. E noi abbiamo una società che, riducendo a consumatore, diciamo, il cittadino, trasformandolo da persona che ha diritti indipendentemente dal fatto che è giovane, sano, o vecchio, è ammalato, no? Indipendentemente da ciò ha diritti, ecco. Passando dal cittadino al consumatore, ecco che l'attacco al legame che alcuni vivono e subiscono diventa anche una forma di discriminazione sociale profonda, e diventano quindi, cioè, queste figure, queste persone senza tutele, senza la possibilità di interlocuzione, perché con chi parlano? Con l'operatore, se è paziente, se ne ha voglia, se non è a tempo determinato, se non è stato messo lì in un, diciamo così, contratto a termine di 2 giorni. Noi abbiamo trovato, diciamo, fenomenologie contrattuali paurose su questi terreni, non interinale che va a sostituire un giorno un lavoratore, ma proprio contratti da 2 giorni, da 5 giorni, cioè che servono proprio a, servono, che comunque funziona, non diamo neanche un giudizio morale di questa roba, più etico, funzionano così. E noi ci troviamo quindi con una situazione che è uguale a quella che tu verifichi per dire al Salone del Libro di Torino, i 5 giorni del Salone del Libro, dove c'è un bar, Autogrill, se vai a parlare alla, diciamo, ragazza che fa il caffè e gli dici che tipo di contratto hai, ti dice 5 giorni. E prima non avevo lavoro, se vogliono, se finiti i 5 giorni posso andare a lavorare a Mantova. Il legame si spezza così, perché un modello di organizzazione del lavoro, un modo di sviluppo, fa sì che ormai le persone vivano frammentate nella loro, diciamo così, esistenza di consumatori, e non possano continuare a esserlo, perché devono pagare rate, cioè della macchina, devono pagare l'affitto, eccetera. E questo determina il fatto che un giorno saranno in un'istituzione per anziani a fare un contratto di 5 giorni, il giorno dopo all'Autogrill del Salone del Libro di Torino a fare le spremute d'arancio, il giorno dopo ancora da un'altra parte ancora. Questo sta producendo anche nel mondo, per esempio, della ricerca, in Italia un disastro infinito. I ricercatori, che sono tutti a tempo determinato, cosa fanno? La prima cosa che fanno è emigrano, ma non emigrano più come ha fatto mia madre, mettiamo, dalla Puglia all'Inghilterra, emigrano in India oggi. Emigrano, cioè, nei luoghi dove sarà forse possibile essere riconosciuti come lavoratori, diciamo così, dotati di un talento e quindi assorbiti da un centro di ricerca e un centro di studi. È un paradosso, perché noi stiamo parlando dei migranti che fanno, diciamo così, che vengono da noi e li vediamo in un modo, ma moltissimi italiani hanno, come dire, oggi un percorso opposto e vanno verso, si dirigono verso altre parti. Il mondo si mischia in questo modo. Uscire di lì significa rimettere al centro l'attenzione per il legame, l'attenzione per la nozione di comunità, ma intesa non come piccola comunità, come comunità locale, difensiva, che si arrocca da qualche parte. Cioè, non dico che non ci devono essere le comunità di aiuto, di sostegno, di lavoro, terapeutiche, questo è un altro discorso, no? Sto facendo un discorso a livello di dinamiche sociali. La comunità di cui dobbiamo cominciare a interessarci seriamente è la comunità nostra di specie, per sopravvivere a questo pianeta che, insieme a questo modello di sviluppo, produce rifiuti sociali e rifiuti tossici. Cioè, abbiamo questa doppia forbice che ormai tutti gli analisti no? Ci sbattono peraltro anche costantemente sui giornali, gli inceneritori, non sappiamo più dove mettere i rifiuti, siamo invasi da tonnellate e tonnellate di rifiuti, perché questo è un modo di produzione che ha interesse a produrre rifiuti, ha molto interesse a produrre, diciamo così. I rifiuti sono un grande business, cioè bisogna farli, venderli e poi incenerirli e venderli una seconda volta. Quindi è un grande affare economico, insomma. Ma l'affare economico più gigantesco sono i rifiuti umani, quelli che Bauman ha chiamato le vite di scarto. È la decisione ormai assolutamente lucida di produrre, no, una serie di vite così precarizzate che io potrò utilizzare, no, a mio piacimento per arrivare a una forma di schiavismo non dichiarato. Quando io creo una sottoclasse di persone senza diritti, non creo solo il migrante che mi lavorerà stanotte per 10 ore, 12 ore, senza diritti e senza tutele, né sanitarie. Creo anche una figura che mi condiziona tutto il lavoro precario e flessibile, no, regolare. Perché se voi entrate oggi in uno Shan, vi troverete, ma dico Shan per non dire Carrefour, per non dirne un altro uguale, voi vi troverete a parità di mansione due figure del lavoro, o tre figure del lavoro, o quattro figure del lavoro, che fanno la stessa mansione con trattamenti differenziati. Uno è di un appalto e prenderà quasi niente, l'altro è un interinale, c'è solo quel giorno ed ha un contratto particolare, l'altro è in un contratto di apprendimento, di come si chiamano, contratti di formazione, e l'altro casomai è messo in regola. Cioè, tu hai una pluralità che a cosa serve questa sfilza di persone? A condizionare ovviamente le parti più forti, a condizionarle verso il basso. Cioè, è una tecnica che hanno sempre usato, cioè, ma che oggi è estremamente raffinata. Quindi il problema non è quei poveretti, è quanto siamo diventati tutti poveretti se non usciamo da questo tipo di dispositivo e di meccanismo. Sì? Io volevo fare una domanda, vabbè, sarà una domanda anche un po' banale, però io in un sito internet dedicato a noi non vedenti ho visto che ci sono tantissimi libri da leggere, ci sono l'imbarazzo della scelta, e ho visto alcuni libri scritti da lei che prima o poi penso anche di poter leggere. Che temi affronta nei suoi libri? Cioè affronta i temi tipo ciò di cui abbiamo parlato stasera, quindi anche emarginazione, vicende vissute di emarginazione, di solitudine, o sono dei vari temi, insomma, questi libri? Sì, noi come cooperativa, noi siamo nati nel 1990 e sin dall'inizio abbiamo fatto la scelta di consentire la traduzione in braille di molti nostri libri. Ci sono due nostri soci di cooperativa che lavorano alla produzione anche gratuita, insomma, cioè di questo tipo di operazione. Per questo ci sono vari titoli nel nostro catalogo che circolano in questo, diciamo così, in questo circuito. Per quel che riguarda la seconda parte della domanda, cioè i libri, diciamo che, io scrivo libri, io faccio ricerca, dal 90 a oggi mi sono interessato di due territori in particolare, e tuttora mi interesso di tutti e due, anche se nell'ultimo periodo do più enfasi al secondo. Il primo è le istituzioni reclusive, però non mi sono interessato delle istituzioni carceri, manicomi, campi di concentramento, non mi sono interessato di questi dal punto di vista dell'istituzione, ma dal punto di vista delle risorse che le persone recluse mettono in atto per non morire all'interno di queste istituzioni. La domanda da cui poi è nata la nostra cooperativa è stata questa: come fa un lungo internato a sopravvivere? Perché sopravvive e che operazioni fa su di sé per sopravvivere? Visto che dal tipo di operazioni che si fanno su di sé ne può diciamo, discendere una doppia, diciamo così, un doppio destino. Uno può diventare abilissimo nel sopravvivere a un campo di concentramento e poi può diventare incapace di sopravvivere fuori dal campo di concentramento. Ricorderete tutti, per dire, Primo Levi, no? Che nonostante sia uscito dal campo di concentramento, sia stato riconosciuto al livello più alto in cui un umano può essere riconosciuto, è andato, diciamo, a portare i suoi libri nelle scuole tedesche, cioè quindi, diciamo, è stato riconosciuto come, diciamo così, per la sua storia precedente e per la sua storia di internamento. Eppure un uomo che non è mai riuscito a togliersi di tasca un pezzo di pane, ha continuato a vivere con questo pezzo di pane stretto nella mano per tutti gli anni che gli sono rimasti, fino a che ha deciso di suicidarsi. Ma si è suicidato Primo Levi, si è suicidato Bruno Bettelheim, potrei fare un elenco infinito di persone che Bruno Bettelheim era un altro uomo che all'interno dei campi di concentramento aveva studiato l'autismo, che è uscito l'autismo di molti internati, che è uscito dal campo di concentramento, ha dato un contributo enorme alla, diciamo così, all'affrontamento del problema dei bambini autistici, no? Con grandi riconoscimenti, con grandi anche, diciamo così, riconoscimenti professionali per questo lavoro, tradotto in tutto il mondo, e tuttavia si è suicidato, e così tantissime altre persone. Per questo noi, per esempio, abbiamo pubblicato un libro che si intitola Sciviti, di un uomo che ha attraversato l'esperienza di Auschwitz e uscito da Auschwitz. Quest'uomo si chiamava Yehiel Ben Hur e firmava i suoi libri con una sigla KZ, Kazenik, che significa internato, no? Nel campo di concentramento. Kazenik è il numero che aveva tatuato. Quest'uomo uscito da Auschwitz, ancora con la divisa di Auschwitz, scrisse un libro che si intitolava Salamandra, proprio nei giorni immediatamente successivi, ancora sul treno che lo portava da Auschwitz in Italia nel transito verso Israele. Questo libro è stato poi pubblicato in tutto il mondo, è stato uno dei grandi testi su Auschwitz. Finito di scrivere il libro, però, questo mi ha detto: non è quello che io volevo dire sul campo di concentramento. E ne ha scritto un altro, La casa delle bandole, anche questo un enorme successo letterario. In Italia, pubblicato a Mondadori, tuttora negli Oscar Mondadori, pubblicato in 50 lingue, eccetera. Non è quello che volevo dire. Allora ne ha scritto un altro, e poi un altro, e poi un altro, e poi un altro. Appena finiva di scrivere il libro, diceva: non sono riuscito a dire cosa devo dire. Finché si è sottoposto a una terapia in Olanda, che veniva gestita da uno psichiatra olandese internato nei campi di concentramento, che ha dedicato quel resto della sua vita ai traumi dell'internamento. E il punto il punto, diciamo, della sua terapia centrale era questo: l'internamento comunque sia è un trauma che quindi uno elabora in qualche misura, no? Ma molto spesso la elabora in una misura tale che poi non riesce più a vedere, come dire, gli diventa invisibile, ineffabile anche, non riesce più neanche a sapere cosa ha fatto, e da quel momento ne diventa prigioniero per tutto il resto della vita. Allora, lavorare su questi sui traumi da internamento è diventato per me un modo di lavorare sul mio destino post-carcerario, cioè molto egoistico anche. L'idea, diciamo, implicita nel ragionamento che ho fatto prima è che uno che ha fatto un lungo internamento, io ho fatto 20 anni, diciamo così, chiuso dentro un carcere, no? 30 anni complessivamente di esperienza carceraria, ebbene, la convinzione che ho è che chi fa un lungo internamento non esce mai più da quell'internamento, non può più uscire. Perché sono 20 o 30 anni della sua vita lì, e per 20 o 30 anni lui ha fatto delle cose per rimanere in vita, per rimanere e non morire. Insomma, intorno a me sono morti molte persone che ho conosciuto, che si sono impiccate, che si sono lasciate andare, che sono morte, come dire, di apparenti cause, diciamo, naturali, no? Ma che invece, come dire, sono morti perché in qualche modo a un certo punto hanno detto basta, muoio e non mi metto il sacchettino di plastica, ma trovo un'altra via per farlo. Bene, allora dico, non uscirai mai più di lì e non puoi neanche però rimanere prigioniero di questo. Come allora affronti questo problema? In termini solitari, di, diciamo così, quasi che questa sia una patologia da affidare a un medico, a uno specialista? No, l'affronti in termini sociali. E cioè dici, il carcere è una parte della mia vita, una parte della mia storia, no? Questa parte della mia vita è stata una grande opportunità per me di esplorare un'esperienza che fanno tantissimi altri. Allora valorizziamo queste esperienze e cerchiamo di evitare che chi fa queste esperienze le risolva nella maniera peggiore, per esempio chiudendo gli occhi sull'esperienza che si sta facendo, dei modi più comuni, che siamo tutti di fronte a un'esperienza dolorosa, è chiudere gli occhi, no? Con un sonno, dormendo, oppure con uno psicofarmaco, oppure con dell'eroina. Possiamo usare tanti modi per chiudere gli occhi. Li chiudiamo perché non vogliamo vedere, svenendo. Vi sapete, i medici penitenziari sanno perfettamente che la forma più comune di risposta al trauma dell'internamento è lo svenimento. Ma che cos'è lo svenimento se non chiudere gli occhi di fronte a una realtà che ci è troppo, diciamo così, ostile, che non vogliamo proprio vedere, metterci di fronte? Ecco, io penso invece che noi dobbiamo aprirgli gli occhi, renderci trasparenti nell'incontro con gli altri e quindi, diciamo così, accogliendo diciamo, le esperienze che altri fanno, facendole raccontare. Io penso che la miglior medicina per vincere, diciamo, la rottura dei legami è instaurare dei processi narrativi, raccontare, raccontarsi, ascoltare e ascoltarsi e aprire un dialogo, perché come Walter Benjamin, che è una figura importante della cultura europea e anche, diciamo così, in parte americana, Benjamin, allora lo chiameremo Benjamin a seconda delle preferenze, diciamo, e dei luoghi in cui è stato. Ebbene, su un lavoro sulla narrazione che ha fatto, un lavoro dedicato a un narratore russo che si chiamava Leskov, dice una cosa importantissima sulla narrazione. E dice: la narrazione non è semplicemente un modo breve, diciamo così, di trasmettere un'esperienza, una conoscenza, qualcosa che si è vissuto, no, è qualcosa di più, è l'instaurazione di un legame. Nell'atto narrativo si stabilisce un legame, si stabilisce proprio l'opposto di ciò che fa la società dell'informazione, la rottura del legame. L'informazione ci piove addosso, non c'è legame di nessun genere, ma se parliamo, no, se parliamo, ecco che qualcosa si costruisce. Per tornare quindi, dopo questo lungo giro, al punto della domanda, per me, diciamo così, il lavoro di scrittura è quindi stato una risorsa, un modo di tenermi vicino a me stesso e alla mia esperienza attraverso l'esperienza che fanno altri che oggi stanno vivendo l'ergastolo, stanno vivendo reclusioni nei minorili o che stanno vivendo reclusioni nei campi rom o che stanno vivendo reclusioni nella povertà o negli ospizi per anziani o nelle istituzioni postmaniconiali. Quindi quei lavori che poi ci sono anche lì sul banco sono lavori che articolano questo tipo particolare di sguardo. E il sito della vostra cooperativa qual è? Il sito della nostra cooperativa è www.sensibilallefoglie.it. Okay, grazie. Volevo chiederti, se voglio dare dai rom e dai migranti, per fare un ragionamento su, usando come punto di inizio, due categorie molto, molto chiare e molto significative per fare ragionamento, per poi arrivare al consumatore, sì, che invece è categoria trasversale e assolutamente universale in questo senso, quantomeno nella civiltà occidentale nostra, dove tutti ci riconosciamo come consumatori, no? ma in qualche modo, come dire, relegando sempre e comunque separando e dicendo ma c'è il consumatore che non ce la fa, quello che non... che è esposto nel consumo per cui ha già beneficia di beni che deve ancora pagare, ma riconoscendo in qualche modo che c'è qualcuno che riesce a pagare e che c'è qualcuno, quindi, come dire, c'è qualche salvato oltre a tanti sommersi. Io sono un pochino più pessimista in questo approccio, nel senso che i fattori che determinano l'esclusione sono tanti e il chiamare consumo è un modo di questa sera, forse però generico, perché il sistema del lavoro, il sistema della casa in Italia in questo momento, il sistema di come è fatta la città, no? È un sistema escludente di per sé, oppure tutto il mondo della finanza che genera un'esclusione che attraversa tutti, anche quelli che si sentono inclusi, no? Nel senso che anche alcuni meccanismi che vengono instaurati, positivi, che sembrano fatti per la sicurezza, penso banalmente alla congestion charge delle telecamerine, sono evidentemente strumenti di controllo che vanno a interferire sui comportamenti, gli spostamenti e quindi quello che siamo, anche di chi evidentemente entrerà come SUV e pagherà, però sarà controllato a sua volta, pur pensando di essere, no? E allora la domanda è, il controllo ha delle falle, inevitabilmente, no? Ci sono dei luoghi in cui il controllo fallisce, dei luoghi dove si sviluppano delle forme di resistenza e dei luoghi, delle situazioni, dei contesti, dei conflitti, delle contraddizioni poste forti, no? dove la coscienza di luogo, questo concetto forse un po', no? Riemerge, ricrea legami, ricrea consapevolezza, fa uscire dal senso unico di un'informazione appunto comandata, determinata, e questi qua sono esattamente, secondo me, dei momenti in cui il controllo complessivo ha un problema. No? Io voglio dire, faccio degli esempi un po' eclatanti, Vicenza e Valsusa. Lì dentro c'è qualcosa che prima o poi dovrà evolversi, no? Ma ci sono anche altre forme micro di resistenza. Sul consumo ce ne sono un po' ormai, probabilmente, no? Anche in Italia, qualcuna forma magari di varia gradazione. Ecco, la domanda che ti faccio è quale agio hanno queste forme di resistenza al controllo e bene o male quale narrazione si può fare di queste forme di resistenza per farle crescere, per darle gambe, cioè come si fa l'agitazione sociale su queste cose?